Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, in programma c'è di parlarvi di Orazio, Aristofane, Giosuè Carducci e altri, di dirvi come va e come non va, nonché di parlarvi anche di un virus moralista.